Tu sei un ingenuo. Tu credi che se un uomo ha un'idea nuova, geniale, abbia anche il dovere di divulgarla. Tu sei un ingenuo. Prima di tutto, perché credi ancora alle idee geniali. Ma quel che è peggio è che credi all'effetto benefico della divulgazione. No. Basta guardarsi intorno per capire che non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Tu mi dirai che la diffusione di un pensiero che possa evolvere il livello della gente è un dovere civile. Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po' patetico. Purtroppo oggi appena un'idea esce da una stanza è subito merce di scambio, roba da supermercato. La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella. No, qualsiasi pensiero nuovo ha bisogno di cure, di protezione, di amore e a volte anche di silenzio. Perché se non è preservato dal frastuono della cattiva divulgazione, soffre, si affievolisce e a poco muore. Stai calma, con calma, prendi tempo, il tuo, tutto quello che resta. Non si sa mai se basta. E resta lì a guardarti in questo essere sola che ti fa perfetta come l'ultima fetta di torta piena di rischi e di attesa. Adesso che l'anima è tesa, puoi disporre di te con calma. E in questo inseguimento ti lavi piano e il tuo piangere lento ti dà una mano. Bisognerebbe avere frutta fresca in frigo per non lasciarti andare. Bisognerebbe avere mille occhi e tutti i nervi in fila per provare ad amarti. Per bene, bisogna innamorarsi. Per bene, le cose vanno fatte per bene, perché l'amore è solo per bene, con calma ti adagi sul fondo di questa notte di marmo e di zucchero. Con calma, e non è mai la mancanza o l'assenza che ti sgomenta, ma è lo spazio che trova il cuore davanti a ogni libertà. Bisognerebbe avere un po' di pane che non somiglia al tuo viso, pane da mangiare. Bisognerebbe avere il senso del non avere, non avere niente e averti solamente. Per bene, per bene, per bene, bisogna innamorarsi. Per bene, le cose vanno fatte. Per bene, perché l'amore è solo per bene, per bene. perché l'amore c'è sempre, può fare a meno dell'alba, perché da sempre sta lì, per bene, per bene, per bene, bisogna innamorarsi, per bene, per bene, le cose vanno fatte, per bene, per bene, perché l'amore è solo per bene, per bene. L'amore c'è sempre e non è mai, perché da sempre sta lì con calma. Benvenuti. Questa è la stanza del nonno. Come state? È un periodo storico difficile questo, eh? Talmente difficile che si ha bisogno di parole che ci confortino, di concetti, di sentire che c'è qualcuno insieme a noi che ha un pensiero per il tutto. È veramente deprimente vedere tutta questa umanità che se ne va in giro senza pensare a nient'altro che, ma neanche a se stessi. Sinceramente non so bene a che cosa. E allora, anche mettendo della musica, anche cercando di costruire una trasmissione, quindi una trasmissione del pensiero, una trasmissione, una riflessione, qualcosa che senza pesantezza ma con ficcante realtà ci consente di ragionare. Beh, la radio ha questa grande, straordinaria possibilità, La televisione non ce l'ha questa, non è una delle prerogative del mezzo televisivo, invece la radio sì. La radio sì, perché la puoi ascoltare veramente in tutte le situazioni possibili e immaginabili, steso, dormendo, cucinando, facendo migliaia di altre cose. E a un certo punto tutto quello che c'è intorno a noi, insomma, non possiamo fare finta di niente, non possiamo ignorarlo, ci tocca, ci prende, ci modifica l'umore, la giornata, ma persino il clima. Così imprevedibile, così tutt'altro che giusto per quello che è il ritmo delle stagioni, no? Delle temperature. C'è qualcosa che non va. C'è più di qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nella natura, nell'uomo. O forse invece va. Deve essere così, ci deve essere un cambiamento, una rivoluzione. Una nuova coscienza? Io, come uomo, io vedo il mondo come un deserto di antiche rovine. Io vedo un uomo che tocca il fondo, ma forse al peggio non c'è mai una fine. Nel frattempo la vita non si arrende e la gente si dà un grande affare, tanti impegni, tante storie, con l'inutile idea di colmare la mancanza di una nuova coscienza, di una vera coscienza. È come se dovessimo riempire un vuoto profondo e allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesimo, pezzetti di sociale, brandelli di antichi ideali, un po' di antirazzismo e qualche alberello qua e là. La decadenza che viviamo è un malessere che ci prende pian piano, è una specie di assenza che prevede una sosta obbligata, è la storia che medita ma si è come assopita. Siamo vivi malgrado la nostra apparenza, come uomini al minimo storico di coscienza, come uomini al minimo storico di coscienza. È come se la vecchia morale non ci bastasse più. In compenso se ne sta diffondendo una nuova, che consiste nel prendere in considerazione più che altro i doveri degli altri verso di noi. Sembrerà strano, ma sta diventando fortemente morale tutto ciò che ci conviene. Praticamente un affare. La decadenza che subiamo è uno scivolo che va giù piano piano. È una nuova esperienza che ti toglie qualsiasi entusiasmo e alla lunga modifica il tuo metabolismo. Siamo qui fermi malgrado la grave emergenza, come uomini al minimo storico coscienza, come uomini al minimo storico di coscienza. E pensare che basterebbe pochissimo, basterebbe spostare a stacco la nostra angolazione visiva, guardare le cose come fosse la prima volta, lasciare fuori campo tutto il conformismo di cui è permeata la nostra esistenza, dubitare delle risposte già pronte, dubitare dei nostri pensieri fermi, sicuri, inamovibili, dubitare delle nostre convinzioni presuntuose e saccenti. Basterebbe smettere una volta per tutte di sentirsi sempre delle brave persone, smettere di sentirsi vittime delle madri, dei padri, dei figli, mariti, mogli, quando forse siamo vittime soltanto della mancanza di potere su noi stessi. Basterebbe smascherare tutto, smascherare l'amore, il riso, il pianto, il cuore, il cervello, smascherare la nostra falsa coscienza individuale. Subito, qui e ora. Sì, basterebbe pochissimo. Non è poi così difficile. Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare, fare il tifo e leggere i giornali. Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente. Rendersi conto che anche l'uomo più mediocre diventa geniale se guarda il mondo con i suoi occhi. Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione, smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro e persino della politica, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Basterebbe opporsi all'idea di calpestare gli altri, ma anche alla finta uguaglianza, smascherare le nostre presunte sicurezze, smascherare la nostra falsa coscienza sociale. Subito, qui e ora, basterebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualche cosa. Basterebbe smettere di credere di poter salvare il mondo con l'illusione della cosiddetta solidarietà. Rendersi conto che la crescita del mercato può anche essere indispensabile alla nostra sopravvivenza, ma che la sua inarrestabile espansione ci rende sempre più egoisti e più volgari. Basterebbe abbandonare l'idea di qualsiasi facile soluzione, ma abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia. Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente. La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose attese. La spinta utopistica è subito, qui e ora. Senso alle cose più semplici e vere, alla vita di ogni giorno, all'urgenza di un uomo migliore. Io vedo un uomo solo e smarrito, come accecato da false paure. Giusti son pretesti per non affrontare la mancanza di una vera coscienza. È la sola ragione della fine di qualsiasi civiltà. Thank you. Sarebbe bella una nuova coscienza. Sarebbe molto bella. Ma come si fa? Come si fa se siamo così... così concentrati, con gli occhi bassi, su un televisorino portatile? Guardiamoci quando camminiamo per la strada. Ci sono pochissime persone che non utilizzano questo cellulare. Anche quando lo tengono in tasca, passano pochi secondi e si ricordano di dover dire immediatamente qualcosa, di guardare immediatamente qualcosa, un messaggio che è arrivato. E ci siamo completamente dimenticati che esistono dei tempi. Esistono delle possibilità. Esistono delle possibilità per cui possiamo anche rispondere tra un'ora, per esempio, se stiamo facendo qualcosa di interessante. Io vedo persone che attraversano la strada. Dove non ci sono incroci protetti, attraversano la strada guardando il telefono. Cosa si aspettano che gli dica il telefono? Ah, scemo, c'è qualcuno che ti sta mettendo sotto. Probabile. È avvilente. Non mi piace. Non mi piace. E tutto questo si ripercuote nel pensiero, nel perché io sono qui a fare musica. Per cosa? Per chi? Per quale scopo? Perché ogni azione deve avere uno scopo. Ho raggiunto il piacere di poter condividere della musica con qualcuno. Ed è un piacere abbastanza grande. Ma poi, nel momento in cui si è insieme, si riesce a tornare ad essere insieme. E questa forza, questa energia che si è ristabilita, ma dovrebbe portare a qualcosa. Dovrebbe riportare la luce. Perché qui ci stanno convincendo che il buio in cui viviamo è la realtà. Non è così. E la musica, come sentite, ci può aiutare. Qualcuno penserà, dico, che cos'è questa musica che ascoltiamo, perché ci può aiutare. Già per il fatto che siamo qui insieme in questo momento, in questo istante. Io non sono un profeta. Sono un uomo come tanti. E in questo momento storico mi pongo delle domande. E nel momento stesso in cui io faccio il mio lavoro, oppure coltivo il mio piacere, che è quello di condividere musica con persone che ascoltano, e beh, mi pongo dei problemi, mi pongo dei tentativi di risposta, no? Cosa si potrebbe fare? Cosa dovremmo cominciare a pensare? Cosa dovremmo cominciare a costruire? Io ho cominciato da quello che mi manca. E mi mancava, da anni, una radio che facesse una musica nella quale potessi riconoscermi. Il che non vuol dire restare in un ghetto. Ma vuol dire, secondo il mio punto di vista, aprirsi. Aprirsi a a tutto il mondo e anche a tutto l'universo. Non soltanto al mondo. E in pratica, In pratica, questo tipo di sound mi permette di continuare a riflettere. Come sapete, a me piace molto parlare sulla musica, ma è una deformazione professionale perché da sempre mi piace leggere dal vivo dei libri, recitare con un accompagnamento musicale giusto. Invece Fabrizio Stramacci mi faceva notare, ed è giusto anche quello, che quando metti della bellissima musica non ci devi parlare sopra, la presenti, la proponi, no? E poi la fai ascoltare. Anche questo è vero, anche questo è giusto. In questo momento storico, per me, non è la mia cifra, evidentemente. Io ho bisogno di comunicare, di far vedere che c'è un essere umano dietro i suoni di una radio, perché ci hanno abituati ai computer, ci hanno abituati a persone che non ci sono dietro i microfoni, ci hanno abituato a persone che, se ci sono, sono persone che non hanno nessuna libertà di fare niente, se non di dire l'orario e di dire due scemenze. Questo è grave, ci svuota, ci ha svuotati. Fateci caso, sono tantissime le radio, fateci caso. La musica non è decisa da loro, la musica la decide uno e le spalma in tutte le radio. Robaccia, roba che non tocca il cuore quasi mai. Ci rallegra, ci fa ballare, ci fa sentir bene. Cantiamo. Ma la musica può essere ben altro. Non solo, naturalmente. Anche a me piace ballare, scherzare, giocare. Non bisogna essere sempre necessariamente seriosi. Però non potete negare che questo è un momento storico in cui succedono tante tale di quelle cose orribili che dobbiamo mandare giù tutti i giorni fino a che non facciamo il callo. E invece no, il callo non deve venire mai. E quelli che sono i soprusi, quelli che sono le cose che non vanno, bisogna dirlo. Sento troppe persone che dicono: ma sai, non serve a niente. Non serve a niente. Serve a te, come essere umano, a non sputarti in faccia quando ti vedi davanti allo specchio. E allora, di nuovo, sono andato a cercare le parole. E stranamente, in questo caso, sono sempre le parole di qualcuno che ci ha pensato. Lo ha fatto per la società per cui lo fa. E guardate che questo serve. Come avete visto, è servito, ha funzionato. Aprire le coscienze. È stato subito sotterrato. Sì, ma si può ricominciare. Si può imparare a svicolare e ricominciare. Riaccendere le menti. E non crediate che questo sia nulla. Non crediate che questo programma radiofonico fatto così diverso da tutto quello che c'è in giro non sia già una punta dell'iceberg. E che non se ne accorgono, perché non sanno più come si è fatta la radio. Non lo sanno e quindi non la riconoscono, ma soprattutto non la riconoscono come qualcosa che può far scaturire un'idea. I can't hate you. still really, really love you. Siamo capaci di fare dolcezza, musica, cosa straordinaria. E siamo sempre noi. Noi che costruiamo le fandezze, noi che facciamo bella musica, siamo sempre noi. Sure, give you the world if it was mine. Shade, da un disco straordinario che seguiva uno dei suoi più belli, quello del debutto. E adesso Shade sta per tornare, chissà con quale forma vocale, chissà con quale novità. Di sicuro sarà sempre lei, in qualche modo, no? Sono passati gli anni, le cose vissute, chissà che cosa ci ha proposto. Siamo curiosi di sentirla. Thank you. paese democratico che mi fai sempre dire di no. Io ogni giorno mi dimentico di vivere in Italia. Vieni qui che non ti penti, siamo candidi, accoglienti, calmi, sorridenti. Tanti complimenti, sappi che noi siamo the problem in Italy is everybody want to do something. Grandi maestri, grandi disonesti, poeti di un'arte che spinge gli oppressi a vedersi diversi. Si uniti repressi, i padroni hanno cani da guardia agli ingressi. E li difendono coi manganelli, con i proiettili e con i coltelli. I privilegi che erano diritti adesso sono lussi solo dei potenti. Li prenderanno per un incosciente, un fuori di mente, un fuori legge che il peso regge da fuori legge. Tutta l'ipocrisia che ci corregge. Non mi vedrai mai inchinato, perché i nuovi schiavi stanno in piedi. Ed è inutile che non ci credi, so benissimo che te lo chiedi. Non vedo baraccopoli di bianchi, vedo bene chi sono i braccianti. E mentre parlo che nel mentre parli lì qualcuno muore per quello che mangi. È l'Italia, paese democratico che mi fai sempre dire di no. Io ogni giorno mi dimentico di vivere in Italia. Vieni qui che non ti penti, siamo candidi, accoglienti, calmi, sorridenti. Tanti complimenti, sappi che noi siamo. La fiducia è ai minimi storici. Indebitati un po' con tutti, divisi su un bel po' di fronti. Emigrati nei paesi che oggi ci ricordano di odiare i nostri. Abbiamo i segni dei passati lutti, sui visi su un bel po' di fronti. Parliamo più di 20 lingue ma nessuno tra di noi sa come porsi. Italia della mamma Roma capitale, delle strade e delle sue fontane, della serie di zero calcare che prende schiaffi dalla forestale. Italia di Boccelli, Dallarino, Pino, Lucio, Salmo, Capa, Clementino, Danno, Cuccio, tutti in unico tessuto. Italia è tutto il suo vissuto, è l'Italia, paese democratico che mi fai sempre dire di no. Io ogni giorno mi dimentico di vivere in Italia. Vieni qui che non ti penti, siamo candidi, accoglienti, calmi, sorridenti. Tanti complimenti, sappi noi siamo l'Italia, paese democratico che mi fai sempre dire di no. Io ogni giorno mi dimentico di vivere in Italia. Vieni qui che non ti penti, siamo candidi, accoglienti, calmi, sorridenti. Complimenti, sappi che noi siamo pure un sacco di studenti, piccoli contribuenti, giovani ragazzi spenti dal protrarsi degli eventi in cui volevamo cambiamenti, ma ci è andato calcio ai denti, con anfibi che pagano i nostri genitori da decenni. Siamo corsari in un mare che ha onde di niente. Domani può darsi che siano anche quelle in mani di chi è il miglior offerente. Il denaro è potente. Paese democratico che mi fa sempre dire di no. Io ogni giorno mi dimentico di vivere in Italia. Vieni qui che non ti penti, siamo candidi, accoglienti, calmi, sorridenti. Tanti complimenti, sappi noi siamo l'Italia. Anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta, solo due, credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che appena nasce è cattolico apostolico romano. Cattolico, pazienza, apostolico non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici?

durante la pandemia un musicista, un signore che si chiama Chick Corea, ci fece entrare nel suo studio privato e con il pianoforte collegato col mondo ci faceva ascoltare le sue ricerche. Qualche frammento di una sua nuova composizione. E mi sembrava curioso, c'era qualcosa sotto che mi veniva comunicato, no? Ho sempre avuto grande simpatia per Chick Corea. Non mi sono piaciuti tutti i dischi che ha fatto, ma moltissimi sì. Uno l'ho anche utilizzato come mia sigla, No Mystery. Tutte le sere io guardavo questi video, queste trasmissioni in sostanza, perché ci si collegava col suo studio e poi rispondeva e poi c'erano delle discussioni di tipo musicale, di tipo tecnico. Quello che avevo percepito, ma non avevo capito, che Chick Corea stava morendo, e quella è stata l'ultima volta che lui e noi abbiamo potuto comunicare, vederci. Curioso, no? Non so se si trovano ancora questi video sul web, credo di sì. Sono tutti pensieri, sono tutte riflessioni. Questa qui per esempio è un artista che si chiama Hani Arani, il pezzo si chiama Dreamy. Bello, no? La bellezza nella musica apre il cuore, fa pensare. Magari ci viene un'idea. Battere questi uomini che vogliono ridurre il mondo a un grande campo di battaglia, pianti, sangue, dobbiamo combatterli. Come? Con le nostre forze, col nostro amore, con le cose che abbiamo a disposizione. Letteratura, poesia, musica. E infatti è con la musica che io sto cercando di trovare una strada. Probabilmente al suo tempo anche Johann Sebastian Bach ci provava. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Actus tragic. Bach. Thank you. La fine di una civiltà non è quasi mai avvertita da coloro che la vivono direttamente. La fine di una civiltà si rivela dallo scadere dei vecchi principi su cui si reggeva, ma anche dagli atteggiamenti più banali della nostra quotidianità. La fine di una civiltà prevede da sempre l'invasione di orde barbariche che si insinuano nelle strutture portanti e a poco occupano tutti i posti di potere. Tanto più l'uomo cosiddetto civile è stanco ed esangue, tanto più è certa e inevitabile la vittoria dei barbari. Il fascino di un atelier pieno di mesh di profumi e sorrisi, Armani, Dolce Gabbana, Valentino. Il mito di una rockstar coi suoi successi sempre più famosi, e voi tutti in piedi col vostro accendino. E intanto i barbari arrivano, i barbari. E intanto i barbari arrivano, i barbari. Passare una serata allegra nel clima intimo della tua casa, assistere a un programma trucido col pianto in gola, oppure in un grande stadio all'ultimo minuto della ripresa arriva finalmente il gol e parte la ola. E intanto i barbari arrivano, i barbari. E intanto i barbari arrivano, i barbari. Il lotto, il totogol, il gratta e vinci, ma che emozione. La vita è un uomo di Pasqua, una lotteria. Di un corpo sano, mangiare poco ed allenarsi bene, coi vostri massaggi e l'omeopatia. E intanto i barbari arrivano, i barbari. Ma chi sono i barbari? Dopo ve lo dico, i barbari. E voi indaffarati, con niente da fare, con niente da dire, avete capito che anche l'aspetto si può migliorare. I piedi, vi fate i capelli, ma l'ansia cresce, vi fate le tette, il culo e le cosce. Che cosce! E devo dire che siete bravi, siete proprio bravi, che date il vostro contributo, il vostro aiuto festoso e originale. In questa allegra esibizione ognun artista come può, come gli viene, immergersi in un computer e rincoglionirsi con un bel giochino, un video pieno di ostacoli senza fine. Il genere si finisce in un gradevole ristorantino, una gran bella mangiata e tutto va bene. E intanto i barbari arrivano, in solita emozione di una domenica un po' speciale, commossi tra la folla a vedere il Papa. C'è un senso di euforia, di grandi mutamenti nel sociale, fra poco cambia tutto, ormai siamo in Europa. E intanto i barbari arrivano, i barbari. Ma chi sono i barbari? Dopo ve lo dico, i barbari. Spensierati, con niente da fare, con niente da dire, un idromassaggio, mezz'ora di stretching e via ballare. Un po' di palestra, la tua pastichina ma senza eccesso, un po' di orecchini, la lampada al quarzo e un pelo di sesso. Che sesso! Devo dire che siete bravi, siete proprio bravi, che date contributo, il vostro aiuto vessoso e originale. I barbari arrivano, i barbari, e intanto i barbari, ma che paura, i barbari arrivano, i barbari, da come noi viviamo, i barbari, da quello che facciamo, i barbari, sì, ma chi sono i barbari, adesso ve lo dico, i barbari, i barbari, i barbari, eccoci qua. Ta ta ta ta. La semplicità che diventa eccesso, uova strapazzate al caviale ossietro e al tartufo fresco. Italiano. Che meraviglia. E per restare in tema di italianità, Castello Banfi, excelsus, austero e di buon gusto. Ma perché siamo stati così coglioni? C'è da desumere una carenza congenita di discernimento? Niente affatto. Contrariamente a quanto si crede, l'intelligenza non è una caratteristica individuale, è un fenomeno collettivo, nazionale, intermittente. Ecco, una nuova teoria. Assolutamente. Atene 416, la prima delle lettere di Euripide. Sulle gradinate due suoi rivali, Sofocle e Aristofane. E due suoi amici, Socrate e Platone. L'intelligenza c'era. Io ho di meglio. Mm? Firenze, 1504, Palazzo Vecchio. Due pareti opposte, due pittori. Alla mia destra Leonardo da Vinci, a sinistra Michelangelo. C'è un apprendista, Raffaello, e c'è un manager, Niccolò Machiavelli. Evviva l'Italia! Però... Philadelphia, Pennsylvania, 1776-1787. Dichiarazione di indipendenza e Costituzione degli Stati Uniti. Quando nel corso di eventi umani sorge la necessità... Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton e Madison. Nessun altro paese ha avuto una simile fortuna. Io sono nato Chicoutimi in Canada nel 1950. È un miracolo che tu non sia ancora più scemo di quanto già sei. Nel 50 tutti erano scemi, ad Atene come a Chicoutimi. Se fossi stato italiano avresti sostenuto le Brigate Rosse, molto eccitante. E adesso si sorbirebbe Berlusconi. Mentre a Philadelphia avrebbe votato per George Bush. Ma lo vedi, tutto sommato non sei così scemo. L'intelligenza è scomparsa. E non per essere pessimisti, ma talvolta rimane assente a lungo. Dalla morte di Tacito alla nascita di Dante, per quanto è mancata? 11 secoli? Sì, ma intanto allignava presso gli arabi. Siamo stati tutto e il contrario di tutto. È davvero incredibile. Separatisti, indipendentisti, sovranisti, sovranisti associazionisti. Quando muovevamo i primi passi siamo stati esistenzialisti. Avevamo letto Sartre, Camus. Poi abbiamo letto Franz Fanon e siamo diventati anticolonialisti. Dopodiché abbiamo letto Marcuse e siamo diventati marxisti. Marxisti, leninisti, trotskisti, maoisti. Ma lì abbiamo letto Solzhenitsyn, così abbiamo cambiato idea. Siamo diventati strutturalisti. Situazionisti. Femministi. Decostruzionisti. C'è qualche ismo di cui non siamo caduti in adorazione? Sì, c'è. Il cretinismo. Oh mio Dio. Vi ricordate di Guo Jing? Chi sarebbe Guo Jing? Un archeologo che portava la gonna con lo spacco ad altezza inguine. E tu perché te la ricordi? Siamo sul finire degli anni 70. La Cina apre all'Occidente. Guo Jing viene in missione culturale a Montreal. L'università coglie l'occasione per schierare il suo comunista di rappresentanza. E chi meglio di te, io. Certo. Faccio il mio ingresso nella sala da pranzo del suo hotel e appena la vedo sono folgorato. Una bellezza capace di fondere i 7000 soldati di terracotta dell'imperatore Qin. Ordino un tè, scambiamo un paio di convenevoli. Ma già mi vedo avvinghiato a lei nella posizione del bacco da seta. O nel volo della tigre bianca. Insomma, sono seduto davanti a lei e per far colpo decido di buttarmi e le dico: è straordinario quello che sta succedendo in Cina. Lei non può immaginare quanto vi invidiamo. La vostra rivoluzione culturale è formidabile. A un tratto vedo i suoi bellissimi occhi neri appannarsi e immagino con orrore cosa sta pensando in quell'istante. O questo tipo è un agente provocatore della CIA, o è il più smisurato cretino del mondo occidentale. Ovviamente opta per la seconda ipotesi. E addio tigre bianca e bacco da seta. Già. Aveva spalato merda di maiale per 2 anni in un campo di rieducazione per dissidenti. Suo padre era stato fucilato, sua madre si era suicidata. È un povero imbecille franco-canadese per il fatto di essere andato a vedere qualche film di Jean-Luc Godard e di aver letto Philippe Solers. Nella sua testolina trovava che la rivoluzione culturale cinese era formidabile. E nella scala del cretinismo è impossibile precipitare più in basso. Thank you.

la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo, con la paura di non tornare al lavoro, rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente, mi sforzo di ripetermi con loro e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso, e l'esplosivo spacca taglia fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta e a non aver pietà per la mia prima volta. Improvviso si sente un odore di brace, qualcosa che brucia nel sangue e non ti lascia in pace. Un pugno di rabbia che ha il suono tremendo di un vecchio boato, qualcosa che crolla, che esplode, qualcosa che urla, un treno è saltato. Che caldo, che fumo. La nostra Costituzione, voi lo sapete. L'odore di braccio. La riorganizzazione sotto qualsiasi forma del discorso fascino. Non ci vuole molto. Il movimento sociale italiano vive e vegeta. È stata una strada. Almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali fasci della Repubblica Sociale Italiana. Capire che niente e ordiva spietata la pressione, niente è cambiato, alla possibilità di mostrarsi in delle schermi come capo di un partito, da quel quarto è difficile piano, collocare nell'arco di fascista e pezzo costituzionale, da quella Milano, finestra al mondo. Un treno è saltato. Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Agosto si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra, ma certo d'amore. Si muore di bombe, si muore di stragi, più o meno di stato. Si muore, si crolla, si esplode, si piange, si urla, un treno è saltato. Attraverso la musica, tornano alla mente i fatti, alcuni dimenticati, alcuni non raccontati, e siamo di nuovo qui, allo stesso punto. Bella piazza. Ci passò una lepre pazza, uno cucinò, uno se lo mangiò, uno lo divorò, uno lo torturò, uno lo scorticò. Stridolo, uno lo impiccò del mignolino che era il più piccino, più niente restò. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza. Passarono 10 morti, i tacchi indegni degli ufficiali, teste calve, politicanti, 1,5 metri senza le ali. Ci passai con la barba lunga per coprire le mie vergogne, ci passai con i pugni in tasca, senza sassi per le carogne. Piazza, bella piazza, ci passò. We'll be right back.

che non hai, se non sai cosa scrivi, se alla fine non lo sai. Ma non vedi che qui c'è qualcuno che si muove senza dignità? Non mi accorgo, ma cado nel gioco, commentare senza pietà. Sono tutti comici, economi, astronomi, tuttologi. Scrivono con gli alluci, senza freni, puttanate colossali, poi si sentono normali. Se non sai, se non sai cosa vuoi, se non sai quando giudichi chi sei, se non sai non buttare le parole che non hai, se non sai cosa scrivi, se alla fine non lo sai. Ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai, non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo, una specie di mutazione antropologica. C'è tutta una vita nella stanza del nonno. La stanza del nonno. Thank you. Eppure, dopo tutta questa riflessione che ho fatto una volta e che oggi sto riascoltando, devo dire che l'avevo fatta così. Tutto quello che avete sentito fino adesso, pezzi di musica, tentativi di dire qualcosa, improvvisamente qualcosa si è accesa nell'umanità delle persone e si sono messe tutte insieme a riempire le città, fiumi di gente bella, di volti belli, fiumi tantissime città d'Italia, dell'Europa. Questo significa che sedersi insieme a pensare, a parlare, a dirsi, ad ascoltare musica, a preparare la propria barca per partire, serve a qualcosa. Serve a anche a riempire una rete di pesce davanti a un mare che contiene molto gas.